notizia ci preoccupa. Diciamo che rispetto a quanto minacciato da Trump, che aveva annunciato dazi al 100%, la tariffa che si abbatterà sui Made in Italy di qualità sarà pari al 25%. Insomma, ciò non significa affatto che noi siamo contenti e soddisfatti, però il dazio passerà dagli attuali 2,15 dollari al chilo sul nostro prodotto a circa 6 dollari al chilo. Insomma, quindi giusto per dare un'idea. Se oggi il costo che un consumatore americano paga è circa 40 dollari al chilo, dal 18 ottobre pagherà oltre 45 dollari al chilo. Avete stimato se quanto può incidere, soprattutto in relazione al target che acquista il vostro prodotto negli Stati Uniti? Al momento è molto difficile prevedere quali saranno gli effetti immediati delle tariffe. Il nostro prodotto fortunatamente è un prodotto di altissima qualità, quindi noi stiamo facendo già del nostro meglio affinché i consumatori americani siano consapevoli di tutti i valori della nostra DOP. Quindi distinguersi in ogni modo dai prodotti similari come il Parmesan che gli americani trovano a basso prezzo nei loro supermercati. La cosa che ci preme sottolineare è che siamo molto amareggiati perché l'Italia, che non c'entra assolutamente nulla con il consorzio Airbus, si trova a pagare una bolletta veramente insensata senza alcun motivo. Quindi diciamo che quello che noi chiediamo sostanzialmente è un piano di intervento straordinario dell'Unione Europea per evitare che gli effetti di questi dazi diventino traumatici e che riducano le esportazioni in modo sostanziale. Dalle prime dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, insomma, Conte dice: parlerò con l'amministrazione Trump e cercherò di convincere almeno a escludere i prodotti italiani. Quindi, insomma, avete fiducia nel governo? Allora, noi abbiamo fiducia e sicuramente in questi giorni siamo stati molto contenti perché abbiamo visto che sia la ministra, ma anche semplicemente tutti i consumatori che mostrano affetto sui nostri canali social hanno veramente fatto una battaglia e quindi abbiamo capito che il parmigiano reggiano è davvero un'icona del Made in Italy in questo senso. E ovviamente serve un appoggio del governo, ma soprattutto dell'Europa, perché queste battaglie sono essenzialmente delle battaglie politiche, ecco, quindi sono delle trattative che vanno trattate in sede istituzionale. Quanto ha inciso l'export del parmigiano reggiano in questi anni? Per noi gli Stati Uniti rappresentano un mercato fondamentale, dopo la Francia sono il nostro mercato più importante, quindi consideri che vendiamo circa 10.000 tonnellate di prodotto l'anno negli Stati Uniti, quindi oltreoceano è senza dubbio il nostro mercato più importante. Misure di questo tipo, appunto dazi, al di là delle percentuali, lei in apertura ci diceva, per fortuna sono inferiori rispetto a quelle inizialmente annunciate, però, come dire, queste iniziative possono in un qualche modo favorire fiorire dell'Italian sounding, della contraffazione? Assolutamente sì. Allora, il nostro problema più grande al di fuori dell'Europa, cioè al di fuori dell'Unione Europea, è quello di un'assoluta mancanza di tutela. Cioè noi se in Europa Parmesan è uguale a Parmigiano Reggiano e nessuno può permettersi di mettere sullo scaffale un Parmesan, negli Stati Uniti l'americano che entra in un supermercato e trova sullo stesso scaffale un Parmigiano Reggiano a 40 dollari e un Parmesan che costa pochissimo e che richiama per colori, per confezione e per concetto un prodotto italiano. Noi abbiamo fatto delle ricerche e anche mostrando un prodotto con indicazione Made in Wisconsin, interrogando i consumatori, un 2/3, diciamo, dei consumatori risponde che il prodotto è italiano.